La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buongiorno e ben ritrovati alla prima volta. Quella di oggi è la prima volta di un progetto più che di una persona, perché quella che vi raccontiamo è la prima volta di Africa e Mediterraneo, di una cooperativa di studiosi e per ultimo di un progetto che ha al centro persone in fuga dalla violenza. Persone che una volta arrivate in Europa chiedono aiuto, rifugio, asilo. Un progetto che ha preso corpo in un libro curato da Sandra Federici, una persona di grande valore che da anni lavora con entusiasmo e tenacia perché la cultura africana si diffonde in Italia e in Europa. Una cultura che deve fare i conti con la violenza e l'ottusità di certi regimi, come quello talebano in Afghanistan. Un regime dal quale molti ragazzi tentano di fuggire. Un regime ben raccontato in viaggio a Kandahar. Silenzio! Che cos'è una spada? È un'arma fredda che assicura l'esecuzione della volontà di Dio. Taglia la mano del ladro, il collo dell'assassino, il petto del miscredente. Riprendete! Silenzio! Silenzio! Che cos'è un Kalashnikov? Il Kalashnikov è un'arma calda a fuoco continuo che, grazie all'azione della polvere da sparo e di vari meccanismi, svolge il suo lavoro automaticamente, rende vani gli obiettivi dei malvagi ed elimina i malvagi dalla società. Da capo. Sandra Federici, innanzitutto buongiorno, benvenuta alla prima volta. La ragione per cui ci siamo sentite, abbiamo deciso poi di estendere la nostra chiacchierata anche ai nostri ascoltatori, è perché lei mi ha mandato un libro dal titolo Tutta la vita in un foglio, memorie di richiedenti asilo. Ecco, se lei me lo permette, io che l'ho letto questo libro ed è veramente bello, leggerei ai nostri ascoltatori una delle tante storie raccolte in questo volume, una che mi ha colpito anche forse perché si parla di giornalisti, ma ce ne sono tante, ognuno si può immedesimare nella storia che vuole, purtroppo sono tutte storie molto tristi. Scappato per non combattere la guerra santa, richiedente asilo afghano, la storia di questo ragazzo nato nel 1980 in un villaggio in Afghanistan, che fa il giornalista, ha due figlie e una moglie che fa anche lei la giornalista. Dice: la nostra situazione era difficile perché ricevevamo continue minacce, ma nonostante questo non ci fermavamo perché scrivere lo consideravamo un nostro dovere. Un giorno ci è stata recapitata una lettera in cui venivamo accusati di essere delle spie che collaboravano con i pagani e venivano esortati a smettere o saremmo stati uccisi. Io non ho detto nulla a mia moglie per non spaventarla, ma poco dopo lei ha scritto un articolo in cui criticava il regime dei talebani e subito ci è arrivata un'altra lettera minatoria. Tutta questa è la premessa di una storia che poi finisce con la fuga di quest'uomo, una fuga, prima c'è stata una prigionia di un anno e mezzo, non sapere dove fossero la moglie e le figlie, e alla fine è arrivato in Italia di passaggio, va in Svezia e finalmente scopre che ci sono ancora vive la moglie e le figlie, che sono in Europa, ma non sa dove siano e le sta cercando. Questa è una delle tante storie che lei, insieme ai suoi collaboratori, ha raccolto nel libro Tutta la vita in un foglio. Innanzitutto, da cosa nasce questo bellissimo progetto? Questo libro nasce nell'ambito di una campagna di comunicazione fatta dal Comune di Bologna per far conoscere ai cittadini il fatto che il Comune di Bologna, come tanti altri enti in Italia, fa accoglienza dei richiedenti asilo, perché questo è un dovere, è una situazione ormai strutturale che deve essere affrontata dall'Italia e dagli enti locali come viene fatto in tutti gli altri paesi europei. Quindi c'è questa campagna Bologna Cares che con varie iniziative promuove la conoscenza di questo fatto presso i cittadini. Una di queste iniziative che abbiamo proposto noi come cooperativa Laimomo e Rivista Africa e Mediterraneo, che gestisce questa campagna, abbiamo proposto di pubblicare le memorie che i richiedenti asilo allegano alla loro domanda d'asilo. Quando un richiedente asilo arriva in Italia, compila un modulo con il quale chiede protezione allo Stato italiano. A questo modulo può allegare la descrizione di quello che gli è successo e dei motivi per cui non può tornare nel proprio paese. Ci sono degli operatori che aiutano, ad esempio, i richiedenti asilo analfabeti o che conoscono solo le loro lingue madri, non lingue coloniali, a produrre queste memorie, e la nostra cooperativa fa questo. Per cui avevamo tutto questo materiale che era di una ricchezza straordinaria, perché mette le persone a confronto con le storie individuali, quindi dalla massa delle persone che noi vediamo nei nostri schermi, passare invece alla storia di ogni singola persona, che è sempre per certe cose uguale, ma è sempre unica rispetto alle altre, e ci mette davanti a tanta sofferenza, tanta volontà però di fuggire, di farcela, di portare via i propri figli, e quindi sono storie di un grandissimo valore. Le abbiamo rese anonime e selezionate, perché sono tantissime, e così pubblicate. Ecco, voi quindi avete a che fare quotidianamente con queste persone, cioè com'è fare questo lavoro, vedersi arrivare tutte queste storie, perché adesso queste sono in un libro, in qualche modo io le leggo e ho anche il tempo, no, di metabolizzare il dolore, scelgo quando chiudere il libro, invece voi non potete scegliere in qualche modo di chiudere, e dovete ascoltarle queste storie. Sì, gli operatori che fanno il lavoro dell'accoglienza dei richiedenti asilo, che adesso in Italia sono tantissimi, e sono state anche messe a confronto con situazioni spiacevoli in certe regioni italiane, fanno veramente un lavoro meritorio, perché si trovano a confronto quotidianamente in rapporti che a volte durano anche mesi con gruppi di persone alle quali bisogna dare assistenza, quindi non solo da mangiare, un tetto sopra la testa, ma l'assistenza sanitaria, perché di solito dopo una settimana, 10 giorni che queste persone sono arrivate nei centri di seconda accoglienza, quindi dal sud Italia, vengono distribuite nelle regioni, hanno tantissimi problemi sanitari che emergono. Dopo, passata l'adrenalina, c'è proprio l'emersione di problemi, ma dai denti allo stomaco, tantissimi problemi. Poi c'è l'assistenza legale per fare la richiesta d'asilo, che non è facile, quindi devono essere accompagnati, e anche dei percorsi di integrazione con i corsi di italiano, che sono importantissimi per queste persone, per avere una possibilità, una speranza di un futuro nel nostro paese. Tutto questo si colloca in una quotidianità del giorno dopo giorno, a contatto con persone che hanno questi traumi dietro, che hanno tante aspettative, tante speranze, e quindi è effettivamente un lavoro molto difficile, che richiede ad esempio nelle cooperative che vogliono dare anche un certo sostegno ai propri operatori una supervisione psicologica, perché è necessario dare anche un sostegno a chi fa questo lavoro così difficile. Ecco, lei in particolare che si è occupata anche di dare forma in questo libro alle memorie di richiedenti asilo, è una giornalista, è direttrice della rivista Africa e Mediterraneo, che è un altro esempio, è un altro progetto molto bello che va avanti da tantissimi anni, che ha permesso a moltissimi italiani di venire a contatto con la cultura africana e di conoscere, non so, uno tra i tanti esempi che posso fare è il fumetto africano o comunque tante sfaccettature della cultura africana. Innanzitutto, perché è nato questo progetto e insomma a che punto è adesso? Sì, questa rivista è una rivista che è nata nel mondo della cooperazione, era stata fondata da una ONG che è l'ISCOS, e poi dopo è stata proseguita da un gruppo di studiosi che hanno voluto invece trattare più l'aspetto della cultura africana. Cioè, noi ci siamo accorti che la cultura africana contemporanea, mentre era abbastanza conosciuta in Inghilterra, in Francia, c'erano mostre, iniziative e associazioni, in Italia era pochissimo conosciuta, quindi abbiamo puntato molto su questo vastissimo tema, facendo dei dossier su argomenti come l'arte africana contemporanea, il teatro, il cinema, aspetti letterari e a un certo punto anche il fumetto, che si è rivelato un media molto ricco, molto versatile, proprio per descrivere la società africana. Quindi ci sono fumettisti, autori praticamente in tutti i paesi africani che si confrontano con delle industrie culturali, editoriali molto deboli, che aspirano ovviamente spesso ad entrare nei campi culturali europei o nordamericani o giapponesi anche, ma che fanno un lavoro veramente interessante di descrizione nelle loro storie, umoristiche o meno, dei loro paesi, dei loro problemi. Ci sono tantissime storie anche legate alla migrazione. E quindi è davvero un argomento interessante che si presta moltissimo proprio per la cosiddetta educazione allo sviluppo o educazione interculturale, perché trasmette dei concetti con le parole e con le immagini, perché il fumetto è questo grande strumento della letteratura disegnata e quindi è molto interessante. La prima volta. Nuovo insieme in compagnia di Sandra Federici, bolognese, direttrice di Africa e Mediterraneo, un giornale che nel tempo ha portato in molti di noi la voglia, la curiosità di approfondire e conoscere. Sandra, a questo lavoro di africanista ci è arrivata praticamente per caso, ma una volta che ha iniziato questo percorso nulla è stato invece affidato al caso. Nel tempo il lavoro di giornalista si è fatto sempre più ponderante e quella che si è alla fine ritrovata tra le mani, Sandra Federici, è la storia di un intero continente, l'Africa, un continente straziato dalla guerra, dalla repressione religiosa in cui i più giovani fuggono. Storie raccolte in un libro, Tutta la vita in un foglio, dal quale abbiamo scelto di estrarre questa storia, la storia di un richiedente asilo sudanese. Fino al 2005, racconta questa persona, non ho avuto nessun problema. In quell'anno ho ricevuto la proposta di rientrare nell'esercito per partecipare alla guerra in Darfur, iniziata nel 2003. Mi sono rifiutato perché non volevo andare a combattere contro la mia gente. Mi hanno prelevato da casa degli uomini in abiti civili, secondo me appartenenti ai servizi segreti. Mi hanno legato, bendato e gettato in macchina, violentemente. Mi hanno portato in un altro posto, dove mi hanno tenuto prigioniero per 18 giorni. Questa volta mi hanno torturato. Dopo 18 giorni mi hanno riportato a casa. Nel periodo successivo, un lontano parente, nell'esercito, mi ha reso visita per dirmi di lasciare il paese, perché la mia vita era in pericolo. Eravamo nell'ottobre del 2005, credo. Non volevano costringermi a rivedere la mia decisione di non arruolarmi, volevano solamente punirmi. Con mia moglie e mio figlio di 3 anni siamo partiti per la Libia alla fine del 2005. Questa è una delle tante storie raccolte nel libro di Sandra Federici. Abbiamo scelto questa, tra l'altro, che è anche una delle meno cruente, perché ci sono tantissime testimonianze raccolte in Tutta la vita in un foglio, questo è il titolo del libro. Ecco, Sandra, voi avete raccontato l'Africa di chi fugge, ma anche l'Africa di chi resiste e combatte, soprattutto combatte con la creatività. È il caso dei fumettisti africani, tantissimi di grande successo, capaci di sollevare intere generazioni dall'ignoranza. Sì, negli anni 2000, nel corso degli anni 2000 c'è stato una specie di grande esodo dei fumettisti africani che lavorano moltissimo con la vignetta, perché produrre, pubblicare album, cartonati, album di diverse pagine è difficilissimo in Africa, quindi molti si mantengono con la vignetta sui giornali, che è una fonte di reddito. E dopo così il multipartitismo degli anni 90, le grandi illusioni della democrazia, si è passati invece a situazioni molto più dure, per cui i fumettisti, i vignettisti venivano perseguitati, nonostante magari pubblicassero con pseudonimi per non farsi riconoscere, però molti di loro sono dovuti emigrare in Francia e in Inghilterra, per fuggire a questo, e poi hanno continuato le loro attività da questi paesi dove vivevano una situazione di migranti, rifugiati, magari con delle protezioni che li aiutavano e gli permettevano di continuare a produrre e ad esprimersi. Il suo percorso, cioè lei perché a un certo punto è arrivata a dirigere Africa e Mediterraneo? Cioè, era nelle sue corde? Lei voleva occuparsi di Africa? Veramente no, io sono un'italianista, quindi esperta di letteratura italiana, soprattutto moderna e contemporanea, e a un certo punto però era interessata a fare un percorso professionale nel campo dell'editoria. Per caso si è presentata l'occasione di incontrare questo gruppo di persone che lavoravano in questa rivista che era in crisi, e quindi coinvolgendo altre persone, anche devo dire assieme a mio marito, abbiamo dato uno slancio a questo gruppo, rilanciato la rivista e accostato a questa produzione editoriale dei progetti più divulgativi, perché la nostra idea era quella di fare cultura, però in modo che potesse arrivare a un pubblico più ampio di quello che potrebbe essere il pubblico, diciamo, accademico di una rivista di approfondimento, quindi esposizioni, laboratori nelle scuole. Da qui abbiamo cominciato a presentare progetti all'Unione Europea, con la quale un tempo si lavorava molto facilmente, non c'era tutta la concorrenza che c'è adesso, quando tutti i governi sono in crisi e quindi tutte le organizzazioni culturali, anche statali, anche museali, vanno a Bruxelles a chiedere finanziamenti. E quindi grazie molto a questo sostegno della Commissione Europea siamo riusciti a fare un sacco di iniziative, tra cui questa dello studio del fumetto africano. Ecco, lei quindi in qualche modo ci è arrivata per caso. Se posso chiederle anche l'emozione che le ha dato di più gestire e dirigere questo giornale Africa Mediterraneo, cioè le cose inaspettate che le ha dato poi questo percorso professionale, ma anche di vita. Ma le cose inaspettate sono stati soprattutto gli incontri con le persone, sia il lavoro nelle scuole con i ragazzi, che è un lavoro non facile. Io infatti ammiro moltissimo gli insegnanti che giorno dopo giorno stanno nelle classi. A me capita di andarci per dei laboratori, spot, magari quando accompagnando un fumettista, quindi c'è una situazione anche di divertimento, di eccezionalità. Però insomma ci sono stati dei momenti davvero molto belli di partecipazione, di grande interesse da parte dei ragazzi, e poi l'incontro sì con gli artisti africani. Avevo lavorato anche con gli artisti contemporanei dell'arte visuale di grandissimo livello, e questo è stato davvero interessante. Diciamo che le emozioni più grandi sono state le mostre, quando abbiamo portato il fumetto africano nei grandi luoghi dell'arte del fumetto, in particolare il centro del fumetto di Bruxelles, le Centre Belge de la Bande Dessinée, che è il tempio del fumetto europeo, il più grande e importante museo, il museo di Tintin, diciamo, e il museo di Harlem, che è il museo dove vengono lanciati gli artisti afroamericani contemporanei, quindi lo Studio Museum in Harlem, che abbiamo fatto una grandissima mostra che ha avuto anche una grande risonanza sui giornali, ed è stata una grande soddisfazione. Ecco, lei diciamo, se potesse, su cosa lavorerebbe in questo periodo anche storico per riuscire a riportare un po' la palla al centro, perché a volte si ha la sensazione che si stia andando un po' troppo sopra le righe, no? Anche da parte dei commentatori. Secondo me l'atteggiamento giusto è lasciare stare tutti gli allarmismi, le paure, questo senso dell'eccezionalità della situazione. L'immigrazione è un fenomeno strutturale. In Italia l'8% dei cittadini sono immigrati, il 10% dei minori italiani sono di origine straniera, il 15% delle nascite viene da almeno un genitore straniero. Cosa vuol dire tutto questo? Che si va sempre più verso una strutturalità del fenomeno, anche se adesso ci sono stati dei ritorni nei paesi dovuti alla crisi, comunque c'è una quantità enorme di persone che sono qui da anni, sono sposate, hanno fatto i ricongiungimenti familiari, hanno i bambini nelle scuole assieme ai nostri bambini, e quindi è un fenomeno strutturale non facile da gestire, perché l'integrazione, l'abbiamo visto anche recentemente, non è un fenomeno, una cosa facile e che viene spontaneamente. A volte bisogna lavorarci sopra, però è una delle politiche di cui bisogna occuparsi, come ci si deve occupare delle strade, come ci si deve occupare dell'handicap, della scuola. Tra tutte le cose di cui ci si deve occupare, bisogna tener conto anche di questo fenomeno strutturale. Accanto all'immigrazione economica, delle persone che vengono per lavorare, c'è la questione dei rifugiati. Ecco, quello effettivamente negli ultimi 2 anni ha avuto un aumento enorme, dobbiamo ammetterlo. Il rapporto UNHCR del 2013 parla di 51 milioni di persone che nel mondo sono fuori da casa loro per questioni di guerra, di violenza, e l'80% di queste persone sono nei paesi in via di sviluppo, quindi l'Europa e l'America non hanno il peso maggiore. Il peso maggiore l'hanno i paesi, l'Iran, tanti, il Nord Africa, i paesi in via di sviluppo, che supportano il peso maggiore dell'accoglienza dei rifugiati. Però anche questo è un tema che si deve affrontare con lucidità, razionalità, competenza e senza spaventarsi e allarmare, perché lo spavento e l'allarme praticamente non producono nulla di buono. Ecco, c'è da dire anche che lei viene da un territorio, che è quello appunto del bolognese, che ha una storia molto lunga legata all'accoglienza. Devo dire che la crisi economica ha creato dei problemi anche qui, perché sempre più gli enti pubblici chiedono, ad esempio, per questi servizi indirizzati al disagio sociale, di aprirli anche ai cittadini italiani, quindi servizi ad esempio per le persone che sono rimaste senza lavoro, che non riescono a ricollocarsi, aperti sia ai cittadini italiani che immigrati, perché gli immigrati hanno subito di più la crisi, hanno subito di più licenziamenti, la riduzione del reddito, ma anche gli italiani, tante famiglie italiane sono in questa situazione, quindi si cerca di... Questa crisi provoca ovviamente un calo delle risorse e un po' il fenomeno della lotta tra i poveri, questo lo vediamo anche qui da noi. È molto interessante quello che racconta anche questo cambiamento, no, dei servizi per cui ci si rivolge, cioè sono gli italiani che cominciano a rivolgersi agli stessi servizi fino a un tempo utilizzati per gli immigrati. Quello che le volevo chiedere è se invece da questo incontro, oltre che alla guerra tra poveri, possano nascere anche progetti invece di, come dire, di empatia, di comprensione l'uno con l'altro. Le persone mettono in campo le loro capacità e cercano di risolverlo in qualche modo, e le storie positive ci sono, e sono tante situazioni di donne, ad esempio, che sono riuscite a risalire e a reagire a una situazione anche di violenza, per cui sono state portate dai servizi, hanno trovato anche un loro spazio lavorativo con i loro figli, sono andate avanti. Situazioni in cui, ad esempio, immigrati soli hanno trovato un posto, una stanza nella casa con il vecchietto che era rimasto solo nel suo appartamento ormai grande, inutilizzato, e vivono non come badanti ma come conviventi, che fanno compagnia al vecchietto e gli fanno la spesa in cambio di un affitto piccolissimo. Rifugiati che sono riusciti con dei tirocini formativi a trovare un lavoro, magari presso appunto due anziani agricoltori, un caso nella pianura bolognese, che ormai non riuscivano più a tenere dietro a gestire il loro podere, e questo ragazzo maliano è andato a vivere da loro, è stato accolto e adesso segue la loro terra. Tanti casi come questi ci sono. Certo, l'integrazione lavorativa era molto più facile anni fa, adesso veramente il mercato del lavoro assorbe molto poco, questo bene a dirlo. La prima volta termina qui. Io ringrazio Sandra Federici per essere stata con noi, Gianmarco Ferronato in regia, Radio 24 trattino la prima volta, la nostra pagina Facebook, venite a trovarci, commentate con noi e ascoltate le puntate, oppure se ci volete scrivere privatamente l'indirizzo email è laprimavolta@radio24.it. Buona giornata, buona domenica da Cristina Carpinelli.